Sotto il titolo di Ambiguità e Armonia vengono raccolte alcune lezioni che Paul Feyerabend tenne all'Università di Trento dal 4 all'8 maggio del 92. Registrate, trascritte e riviste dall'autore poco prima di cedere il passo ad un tumore che doveva stroncarlo nel 94, costituiscono un curioso documento sulla vita di un intellettuale che della miseria degli intellettuali ha capito tutto, o quasi. Andando un po' a casaccio, come era nel suo stile, nella sua prima lezione, Feyerabend incoccia in un argomento davvero cruciale per tutte le arti e per gli atteggiamenti dell'artista. Parla dell'antico teatro greco e fa notare che la produzione di tragedie e di commedie costituiva parte integrante di grandi celebrazioni religiose e civili. Tranne rare eccezioni, tuttavia, queste opere venivano rappresentate soltanto una volta. Il rapporto fra l'autore e la comunità in cui viveva, insomma, l'opera era legata di principio alla comunità in cui quest'autore viveva, da cui traeva tutti i suoi motivi, e il suo significato era vincolato al momento singolare della rappresentazione, e a dire di Feyerabend ciò ne garantiva anche la più ampia comprensibilità. Si parlava sulla base di questioni condivise e soltanto a chi le condivideva, perciò ogni variazione dal paradigma invalso non poteva che essere afferrato al volo, oppure accettato o rifiutato. All'artista di oggi la cosa farà orrore. Niente repliche, niente copie, sembra quasi dover rinunciare all'unità di misura del successo. Nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, no, per usare ancora una volta il fortunato titolo di Walter Benjamin, l'opera d'arte affida la propria ambizione di immortalità alla copia di sé. Il poeta e il romanziere guardano alla tiratura dei libri, così come il commediografo e il musicista guardano alle repliche, così come il pittore guarda al numero delle proprie mostre e alla presenza della propria opera nei cataloghi importanti. Nessuno fa uno sforzo creativo nella sacrosanta prospettiva che possa venire dimenticato. Anche l'avanguardia che va oltre la parola scritta, oltre la cornice, anche l'avanguardia quando si dice che oggi installa qualcosa destinato ad essere riscomposto il giorno dopo, prima di riscomporlo, lo filma. Come minimo ne fa un video, magari includendovi un po' di pubblico nella presunzione di storicizzarlo. Tutto ciò, d'accordo, è anche il frutto dell'assunzione delle arti tutte al regno del mercantile, ma al contempo è anche il frutto della liquidazione radicale del senso di appartenenza ad una comunità. Parlare a qualcuno di preciso, in vista di dare una mano nel risolvere un problema preciso, parlare per quella sola occasione, sarebbe considerato il segno di un dilettantismo estremo. Anche chi fa il minimalista oggi lo fa in nome di un'idea generalizzante, quella che bisogna fare così perché così va il mondo e perché così è meglio di cos'ha. Chi dà una ricetta valida solo per il qui e ora non riceve la stima dei colti. La ricetta intellettuale ha da essere valida per il qui e ora, per il là e per il domani, deve averci buone credenziali per non essere stata valida ieri e soprattutto deve assumere i connotati idonei per essere inscritta sulle lapidi ben toste dell'eternità. Fra le repliche, nell'arte cinematografica c'è il remake. Così come il gatto con gli stivali fu tratteggiato da Straparola nel 550, rielaborato nei primi anni del 1600 da Giambattista Basile, portato alla fama da Charles Perrault nel 1697, rielaborato ancora da Ludwig Tieck nel 1797, così senza rispetto per gli intervalli sostanziosamente storici, non dico un buon film, ma anche un film mediocre, fra gli architetti dell'ideologia della finta nostalgia odierna, merita una replica, un bel remake, anche a distanza ravvicinatissima. Con la manutenzione ideologica del caso, perché i padroni da servire oggi poi, sono gli stessi di quelli di ieri, sì, ma la maschera e la retorica assumono sempre ghigni e birignao un po' diversi. Le Diaboliques di Henri-Georges Clouzot, a dire il vero, era un film discreto, prodotto nel 1954, ormai lontano. Era interpretato dalla moglie di Clouzot, Vera, da Simon Signoret, da Paul Meurice. Sarebbe stato bello poterlo rivedere così com'era, ma tant'è, le attuali leggi per la distribuzione della ricchezza e delle risorse del pianeta non prevedono la soddisfazione di un desiderio che non implichi lo sperpero di denaro. Ecco che allora qualcuno ha pagato un regista di nome Cecik, poi Isabella Geny, Sharon Stone, Chats Palminteri, per ricostruire sotto il titolo volutamente ambiguo di Diabolique, che in francese vuole la E finale sia al maschile che al femminile, l'antica vicenda per conferirle finalmente un'inverosimiglianza di un'incongruenza che 40 anni prima si guardava bene dell'avere. I Diabolici è la storia di un marito che apparentemente viene ammazzato da una joint venture costituita da moglie, una moglie vilipesa e connessa e stufa, e dall'amante vilipesa con cussa e stufa paro paro. In realtà, come tutti oggi possono immaginare, si tratta ovviamente di un perfido marchingegno ordito dal marito e dall'amante per far venire la crisi cardiaca definitiva alla povera moglie dalle logore coronarie e dal pingue conto in banca. Il remake ripropone quasi alla lettera il vecchio modello, tranne che in pochi particolari, su uno dei quali ho indugiato parecchio. Le due donne sono d'accordo in narcotizzare il marito prima di affogarlo nella vasca da bagno e allo scopo sciolgono abbondanti dosi di sonnifero nel suo amato whisky. Allora, nell'edizione del 54, Paul Meurice prende il bicchiere in mano, si assapora il contenuto con lo sguardo e dice: che bel colore. Nell'edizione del 95, Chats Palminteri prende il bicchiere in mano, si assapora il contenuto e dice: un po' torbido. Sulle prime sono stato tanto sciocco da ritenere che il mutamento non potesse significare un granché. Poi ci ho ripensato. Ho pensato che la replica, nel suo girovagare da un mercato all'altro, non trova mai la stessa identica situazione ideologica. E nella darwiniana lotta per l'esistenza e la riproduzione delle narrazioni, la copia vincente si porta appresso tutte le soluzioni narrative che nel frattempo sono state escogitate. Così come un batterio bombardato da antibiotici e tuttavia sopravvissuto, si riproduce modificando il DNA in modo che gli antibiotici fino ad ora incontrati siano per lui al massimo un tonico ricostituente. Allora, il passaggio da "che bel colore" a "è un po' torbido" è un passaggio che corrisponde a un passaggio da un marito cattivo di un tempo, un cattivo modello anni 50, ad un marito cattivo di oggi. Il primo, sapendo benissimo che in quel bicchiere c'è un sonnifero, fa fino in fondo la parte sua, la parte dell'ingenuo, da una pur minima soddisfazione gliela dà alla moglie destinata, com'è, poi a lasciarci davvero la pelle. Il secondo, invece, si mostra addirittura sospettoso, cattivo da ultima generazione, gioca al gatto con il topo, con un topo che crede di essere il gatto. Sadico infierisce sulla sua vittima, irridendola nel suo ruolo di carnefice. Si lava, si veste, poi corre da Pierre, ma dorme ancora il suo fratellino. Va in cucina per far colazione, nell'angolo vede quella scopa là. Anaïga è venuta un'idea, la cucina spasserà, che idea, così mamma quando poi tornerà non dovrà più farlo lei, felice sarà. Quando più tardi ritorna la mamma, vede in cucina che è tutto pulito, fa un bel sorriso e poi le regala una